I nomi delle cose, la trasmissione della coordinamento femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Ciao a tutte, ciao a tutti. Dedicata a Giorgiana, 12 maggio 1977, 12 maggio 2016. Era il rifiuto di dover far sua la misura della illibertà come condizione desiderabile, in cambio della certezza che l'ingranaggio avrebbe continuato a funzionare e a dispensare anche a lei il poco che le spettava. Com'è che a volte il meccanismo tramandato si inceppa e qualcuno dice no? Io no. Compagna Luna, Barbara Balzerani, 1998. Questa apertura è dedicata a Giorgiana Masi, perché domani è l'anniversario del suo assassinio. E domani alle 17 a Ponte Garibaldi ci sarà un pensiero, un fiore, un incontro per ricordarla. Ma domani, 12 maggio 2016, si svolgerà anche quella che potrebbe essere l'ultima udienza del primo grado del processo che riguarda 18 persone imputate per i fatti del 15 ottobre. Tra le imputazioni ci sono quelle di devastazione e saccheggio e tentato omicidio. Quindi potrebbe andare a sentenza il prossimo domani, no? A seconda che il PM decida di replicare o meno alle argomentazioni difensive. L'accusa ha fatto richiesta di 115 anni complessivi e per queste persone rimaste ancora imputate. I reati contestati vanno dalla resistenza aggravata a pubblico ufficiale, alla devastazione, dalle lesioni all'incendio doloso, ma anche capi di imputazione minori come turbativa dell'ordine pubblico e interruzione di pubblico servizio. La richiesta più alta è di 11 anni di carcere per un manifestante, le altre oscillano dai 3 ai 9 anni di reclusione. Quindi mai come domani è tempo di Giorgiana. Ciao a tutte e ciao a tutti di nuovo. La nostra trasmissione di oggi è incentrata sull'antiimperialismo, ma in una maniera particolare. Cioè ci siamo accorte che ormai il principio di guerra informa tutta la vita e tutto il quotidiano. E rispetto a questo dobbiamo prendere atto da una parte e prendere provvedimenti dall'altra. Per questo vi leggiamo un'apertura che riguarda, che è presa da Compagna Luna di Barbara Balzerani, sempre del 98, e che ci sembra quanto mai azzeccata. Parlavi spesso di quella guerra che io non ho conosciuto, ma i tuoi racconti non si sono mai conquistati nella mia mente una qualche verosimiglianza. Come immaginare quelle giornate mentre coi tuoi quattro figli piccoli sfollavi per chilometri sui monti vicini per sfuggire ai bombardamenti e alla fame? La tua guerra era stata un interminabile amministrare la continua paura che le tue creature si ammalassero, sentissero troppa fame, subissero violenze, che a te fosse impedito di accudirle. E ricordati che hanno... Che a noi poveracci non ci pensa nessuno. Gli americani, sì, brava gente, sono venuti con la cioccolata, le gomme da masticare, i marocchini e quei bombardieri che tanto per non sbagliarsi a volte ci hanno anche sparato addosso. E meno male che stavano dalla parte nostra. Comunque, quando se ne sono andati, sono stata contenta, perché è meglio che ognuno stia a casa sua. No, ma dammi retta, sono ancora qua. Hanno fatto solo finta, non se ne sono mai andati. Quindi oggi abbiamo in questa puntata, vorremmo, insomma, abbiamo dedicato questa puntata alla necessità dell'impegno quotidiano sull'antiimperialismo, di cui per esempio l'antimilitarismo è un aspetto, no? Cioè, non possiamo pensare di impostare l'antiimperialismo solo nel momento delle manifestazioni, magari nazionali, che comunque ci vogliono, ma dovrebbe prendere spunto da qualsiasi occasione ci si presenti, e queste non mancano di sicuro, adesso le vedremo. Noi qui a Roma, per esempio, abbiamo i militari con i mitra a ogni angolo di strada, nelle stazioni della metropolitana, no? Tempo fa addirittura era arrivata una velina, un comunicato ufficiale, che ci sarebbe stata per esempio un'operazione antiterrorismo, tra virgolette, come le chiamano loro, che altro non è che controllo sociale, in una serie di stazioni della metropolitana di Roma, con tanto di finti ostaggi. Quindi figuriamoci se gli scenari di guerra non informano tutto il nostro quotidiano, a partire da tutta una serie di notizie che ci hanno che abbiamo ritenuto importante trasmettervi, fra cui la prima riguarda per esempio la NATO alla Sapienza. Allora sì, praticamente tramite Porta Futuro, che è un progetto della Regione Lazio con finanziamenti europei e gestito da Lazio Adisu, che è appunto l'ente per il diritto agli studi universitari nel Lazio, abbiamo visto che c'è un bando per degli stage nelle sedi estere di Norfolk, Lisbona, della NATO. E appunto questo è diretto proprio alla fascia d'età, insomma, universitaria e dottoranda, perché va dai 21 ai 35, quindi prende proprio la fascia giovane. E in realtà, ovviamente, la cosa, diciamo, particolare di questo, perché ci ha colpito, non è la prima volta ovviamente che la NATO fa degli stage con, appunto, cercando di arruolare, insomma, più giovani possibili di ogni nazione che fa parte comunque della NATO, ma è il fatto che sia appunto un progetto che passi per le università, proprio direttamente dall'università, cioè dagli enti che teoricamente finanziano l'università e i progetti culturali tra virgolette o anche lavorativi, ma appunto un po' questo ci ha fatto riflettere un po' su quello che diciamo sempre, no? Sul rapporto di sfruttamento all'interno delle università, dove ormai si è trasformata completamente in un luogo azienda, quindi i rapporti di forza sono gestiti attraverso comunque la questione della produzione, quanto produci, quanto tu puoi esercitare comunque una forza di contrattazione, ovviamente, no? Nei confronti dell'azienda. Ma tolto questo, ovviamente in questo caso, parlando di imperialismo, il passaggio è ancora più forte, perché ovviamente questo sistema di, a me veniva di definirlo arruolamento coatto, in realtà l'avevo già visto su alcuni manifesti per la Marina Militare, per l'arruolamento. E questo ricorda molto, no, quello che succede poi in America. In America fondamentalmente nelle università, sia i servizi segreti che comunque tutti i dipartimenti di governo vanno a cercare, diciamo, quella che viene definita l'eccellenza per essere arruolata coattamente, perché ovviamente insomma non è che la NATO, il servizio segreto, ti viene a chiedere: senti, ma tu che vuoi fa domani, tipo vieni con noi. Diciamo che scelgono i soggetti più adatti. Esatto, certo, ovviamente. Questo ovviamente è fatto attraverso, cioè nel senso, ormai in America ovviamente c'è una tale fidelizzazione allo Stato, alle sue entità sovrane, che ovviamente non c'è una grossa, cioè è facile trovare ragazzi che non si ribellino, che non vedano nessun problema a lavorare per un ente governativo o quant'altro. Di questo tipo. Di questo, ecco. Tipo, certo. Lo stesso si sta facendo in Italia, cioè il lavoro che sta facendo il PD e tutta la semina che sta portando col suo buon governo, la sua buona scuola, la sua buona qualsiasi cosa, la sua tecnica di comunicazione, è proprio questo in realtà, di sedimentare appunto proprio una fidelizzazione. Volevo cercare un'altra parola ma non mi viene, perché effettivamente è questo, cioè un pensare che nonostante la NATO occupi il nostro territorio sia legittimo che sia occupato da loro, che ci sia un atteggiamento non disfattista nei confronti appunto di questi bei progetti, che darebbero pure un sacco di soldi a questi giovani ragazzi, che permetterebbero appunto di potenziare al massimo le loro capacità produttive, e quindi insomma è assurdo questa collaborazione, perché viene venduta proprio come una collaborazione, un progetto di scambio, no? Addirittura in una frase di uno dei progetti, insomma, che vengono proposti ai ragazzi dell'università, c'è addirittura scritto, insomma, che il fatto di far parte di tante nazioni differenti e di avere punti di vista differenti è proprio la natura della cooperazione, del riuscire a trovare il punto di vista migliore per ogni situazione. E anche qua, insomma, questo l'abbiamo detto più volte, proprio vendere la differenza, no? Come non come baluardo, no? di conflitto, ma come invece sussunzione da parte dell'imperialismo, del neoliberismo. Infatti questo tipo di progetto, come diceva giustamente Noemi, fa parte di un approccio nuovo, non per gli americani, perché a casa loro è prassi corrente, ma è un approccio diverso che sta prendendo piede anche a casa nostra con la popolazione, no? Cioè il rapporto stretto anche per esempio dei servizi segreti con la società civile per coinvolgerla direttamente. Per esempio una volta qui da noi per la società civile era disdicevole avere a che fare con queste strutture, no? Per esempio se si veniva a sapere, si sapeva che c'erano, si faceva finta di niente, ma se qualcuno si scopriva che era invischiato o coinvolto, la società civile lo respingeva, cioè era una cosa disdicevole. Ora invece, per esempio, per continuare il discorso che faceva Noemi sul rapporto con la Sapienza, i servizi segreti italiani hanno lanciato da un po' di tempo una serie di incontri in una quindicina di università, incontri con studenti, ricercatori, eccetera, segnalati dai professori, incontri diciamo come degli stage, con questi studenti ricercatori segnalati dai professori, perché vengono ritenuti interessati alla collaborazione, il tutto alla luce del sole per reclutare soggetti disponibili, no? Per cui una persona può lavorare normalmente, fare lo studente, professore, giornalista, e lavorare anche per i servizi, no? Cioè in una serie infinita poi di strutture collaterali che non sono necessariamente i servizi con la S maiuscola, ma sono tutta una serie di annessi e connessi. E quindi sì, poi questo si riconnette molto, no, a quello che è anche il discorso che facevamo la scorsa volta anche sul TTP, sul corteo, e appunto, cioè, questi rapporti, no, che vengono venduti come necessari, e appunto sì, poi questo, diciamo, ultimamente attraverso il PD in realtà passa sempre questa cosa dei gufi, no? Del disfattismo, dell'essere sì, negativi, sì. Che ovviamente prenderà piede, cioè nel senso, già piano piano in realtà le persone cominciano a sentirsi, no, troppo negative nei confronti, no, di chi combatto ed è troppo conflittuale nei confronti di qualcosa. Sta male essere conflittuali, no? Non è carino. Se non ti stai bene, stai là accanto e non darci fastidio. Sì, poi per una donna, cioè nel senso, devi stare proprio al tuo posto, assolutamente. E a me scodinzolare forse il termine esatto. Sì, direi proprio di sì, cioè nel senso, in questo caso assolutamente. Io non so, ho preso spunto anche da un articolo che è stato scritto, che ho trovato insomma in rete, e che in realtà mi faceva sorridere, ma mi faceva sorridere perché vabbè, era proprio un articolo di propaganda. Era un articolo di propaganda fondamentalmente, a parte che esordiva dicendo che chi si oppone, cioè che paragona l'opposizione a paragona il TTP alla caduta del muro di Berlino. Quindi già comincia bene, quindi penso che forse il mio atteggiamento ilare è stato dovuto pure all'incipit dell'articolo, no? Cioè nel senso, scontato che come il grande occidente, gli Stati Uniti, che non hanno ragione, come portano l'economia, ripristinano la libertà, e quindi insomma questo. Poi altre parole, vabbè, che mi hanno colpito sono stata la fluidità di scambi e gli scambi, e questo secondo me il discorso femminista rientra a bomba nella critica di quello che il neoliberismo e l'imperialismo vogliono in realtà poi colpire, perché parla di scambi naturali. Cioè che appunto questi scambi commerciali, economici, che potrebbero diventare ovviamente a nostro vantaggio, soprattutto dei piccoli e medi, no? Non mica dei grandi, delle multinazionali, sostiene ovviamente questo giornalista, ma parla proprio di naturalità dello scambio, e quindi di quanto il TTP in realtà sia un accordo tra due parti consenzienti, in che cui si amano, che tanto si amano, e no, veramente, cioè i termini che usa è naturale, cioè un, cioè, articolo che dovrebbe parlare di cos'è questo accordo, definisce questo accordo di scambio come naturale. Naturale, certo, e questa è la società più naturale del mondo, la più giusta, la storia è finita e la migliore possibile. No, infatti sì, tanto non ci sono alternativa. E appunto, cioè, dire che ovviamente poi viene ribadito, ma non solo in questo articolo, ma in altri mille articoli che girano ultimamente, potete anche andare tranquillamente sul sito del MISE, del Ministero, dove adesso stranamente a sostituire la Guidi dopo lo scandalo delle intercettazioni hanno messo Calenda. Calenda è il più grande sostenitore del TTP, ma guarda, vedi, ma guarda, chi l'avrebbe detto? Tra l'altro appunto fa parte del, e poi la cosa che, scusate, lo so che sembra gossip, però sono quelle cose che nella testa si collegano piano piano e a me fanno sorridere, però ovviamente mi preoccupano. Sapete di chi è figlio Calenda? Della Comencini. Dai, no, veramente. Cioè, come per dire, uniamo il femminismo istituzionale agli accordi con, cioè, fondiamoli insieme, e a volte ci sono delle persone che rappresentano nella che loro persona proprio sintetizzano queste cose, anche se in realtà ormai abbiamo palesi esempi ovunque di questa. Non è casuale queste cose, certo, appunto, che come tu le definivi di gossip, poi alla fine fanno anche tornare i conti, no? Cioè, certo, insomma, anche perché appunto, insomma, viene venduto anche sulle sue biografie come uno che è cresciuto in una famiglia di artisti e che il padre era tipo, non mi ricordo che cosa, con Pertini, cioè, nel senso, c'è comunque un'enfatizzazione di quella che è la sua biografia, ovviamente per giustificarne e dire che è una brava persona che invece è di cultura, ha un retroterra tale che adesso ha le competenze giuste. E addirittura, quando Renzi lo mise a fare l'ambasciatore a Bruxelles, le sue parole furono: non servono uomini di diplomazia, ma uomini di polso. Soul sisters, let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh.

the swallow so proud and free. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night. Boom, boom, boom, boom. Donna, Donna, Donna. Easily bound and slaughtered, never knowing the reason why. But whoever treasures freedom, like the swallow, has learned to fly. How the winds are laughing, they laugh. Pronto? Pronto? Eccoci, siamo in diretta allora con una compagna della rete No Basine qui in Altrove. Ciao! Ciao! Stavamo raccontando a chi ci ascolta che voi praticamente da molto tempo ormai portate avanti un discorso anti-imperialista e anti-militarista nel vostro territorio, che è un territorio chiaramente assolutamente al centro di tutto questo, di tutto quello che può succedere organizzazione militare, e la Sardegna è assolutamente in mezzo. E rispetto a questo che a noi interessa moltissimo, cioè l'aspetto antimilitarista, antiimperialista militante, cioè il fatto che voi fate delle azioni particolari e mirate, ne avete fatta ieri, che è la manifestazione contro la fabbrica che sta a Domus Novas, a Domus che Novas. Nell'Iglesiente. Ah, è nell'Iglesiente. È una delle tante fabbriche o è particolarmente importante? Allora, questa è l'unica fabbrica delle bombe che c'è in Sardegna, si chiama la RVM, è una, diciamo così, una filiale di una multinazionale tedesca che è la Rheinmetall AG, che sta chiaramente in Germania. Produce proprio delle bombe che sono le MK, poi ci sono ovviamente diverse variabili, MK83, 84 eccetera, che sono state vendute tra altre cose lo scorso giugno nel 2015 agli Emirati Arabi Uniti, e sono state utilizzate contro gli yemeniti in Yemen, che hanno più o meno ucciso 6.000 persone. Ma noi non siamo contro l'articolo 11 della Costituzione, non dice che noi siamo contro la guerra, non possiamo esportare vendere nulla. Certamente, sicuramente è così, ma infatti ovviamente è tutto molto contraddittorio. Noi ieri abbiamo organizzato una manifestazione, tra altre cose in concomitanza a un'altra protesta che c'è stata a Berlino, perché ieri si riunivano gli azionisti della Rheinmetall in un'assemblea generale, e gli antimilitaristi tedeschi erano lì presenti. Ecco, ah, quindi l'hanno fatta anche là. Sì, esatto, abbiamo fatto in contemporanea la nostra protesta, però era mirata a chiaramente interrompere la produzione almeno per un paio di ore, quindi certo. Un po' come quello che è successo con la Trident, diciamo. Esatto. Per quanto possibile. Certamente sì, lì si voleva interrompere proprio un'esercitazione, certo. NATO, e invece ieri abbiamo interrotto almeno per un paio d'ore la produzione delle armi, perché sì, chiaramente la fabbrica la fabbrica è soggetta, diciamo così, a un protocollo simile a quello dei poligoni, quindi se le persone si avvicinano sono anche costretti a interrompere. Perché ho letto infatti un comunicato della questura che dava delle prescrizioni diverse per la manifestazione, diceva che dovevate spostare, sbaglio? Sì, le prescrizioni sono state diverse. Noi abbiamo chiesto di arrivare alle 4, mentre invece ci hanno in qualche modo imposto di arrivare alle 5 e hanno anche vietato il corteo. Noi ci siamo comunque presentati alle 16 del pomeriggio, per quanto ci abbiano bloccato siamo riusciti anche a superare le camionette della polizia, ma in ogni caso diciamo che è stato tutto molto ridicolo, nel senso che gli operai erano già andati via, quindi si sono presi la questura, almeno così hanno detto alle persone che hanno poi mandato la comunicazione, che in realtà l'RVM avrebbe chiesto proprio di non permettere, no, l'incontro con gli operai le persone che lavorano, certo, dentro la fabbrica. Quindi in realtà il turno probabilmente era finito alle 2 del pomeriggio, ecco, perché tutte le persone che sono arrivate anche prima delle 4, la fabbrica era già svuotata, certo, ecco. E noi finisci, poi ti chiedo una cosa. Una manifestazione non dico partecipata come quella ovviamente del 3 novembre, è stata una manifestazione abbastanza partecipata dal punto di vista anche della varietà delle persone che ci sono state, dei militanti, perché si è partiti, diciamo così, dall'area anarchica libertaria fino alle associazioni ambientaliste, qualche indipendentista. Sì, so che ci sono anche gli indipendentisti, sì, mi ricordo, sì, che c'è, esatto, una... e anche ovviamente tanto le varie individualità, quindi era abbastanza varia nel suo complesso. E tra altre cose sono venuti anche dei gruppi di teatro che davanti hanno fatto un piccolo spettacolo. Che poi mi pare tra l'altro che in queste, non nello specifico di questa manifestazione, non lo so, però in generale voi avete un buonissimo rapporto con la popolazione. Ma allora, oddio, in questo caso non è esattamente così, cioè nel senso che stanno cercando di lavorare sul territorio, ed è molto difficile perché chiaramente la Rheinmetall ha un obiettivo preciso, no? Che è quello di investire nei paesi più poveri, quindi, certo, ha trovato sicuramente grande spazio in Sardegna, dove chiaramente c'è più del 50% della disoccupazione e le persone i famosi posti di lavoro. Esatto, sono posti di lavoro che in Sardegna purtroppo sono sempre stati più, cioè il posto di lavoro è quasi concepito come un ricatto e non come un'opportunità, di conseguenza è molto difficile avvicinare le persone a questa battaglia. Quindi si sta facendo un lavoro di avvicinamento, di sensibilizzazione, però è molto difficile, ma anche gli stessi sindacati non sono minimamente sensibili all'argomento, ecco. No, ma se pensi che anche su, cioè ormai sono passati tanti anni, però quando c'era il problema di Porto Marghera che avvelenava assolutamente tutta la popolazione, praticamente gli ambientalisti in quel caso sono stati cacciati a pedate perché chiudevano le fabbriche, insomma, ecco. Sì, ma infatti sui dai sindacati, diciamo così, sì, ma infatti anche sui devo dire che in rete si sono scatenate diverse polemiche ovviamente sulla nostra presenza, ma è ovvio che sia così, quindi ci vorrà del tempo. Tra le altre cose, l'RVM non è nata come fabbrica di bombe, produceva, diciamo così, gli esplosivi per le miniere, così come la Rheinmetall in realtà per le cave. La Rheinmetall, tra le altre, la multinazionale tedesca, tra altre cose, è addirittura che nasce prima della prima guerra mondiale, ha dovuto più volte cambiare la produzione quella bellica a quella civile, costretta anche dopo la seconda guerra mondiale. Poi chiaramente, come ogni multinazionale, si ripresenta con un'altra veste, cambiando, certo, nome, e riprende a seconda della convenienza. a seconda della convenienza. E tra le altre cose, appunto, come dicevi tu, non è, è un po' strano che si possano vendere delle bombe agli Emirati Arabi, ma ovviamente la complicità degli stati c'è, che ed poi è possibile, no? Sì, no, no, che poi trovano tutti gli escamotage. Ho visto proprio qualche giorno fa un servizio in cui l'Italia ha dato il transito a degli aerei della Gran Bretagna inglesi, fighter, sì. Per come atterravano in Italia come tappa e poi partivano per il Medio Oriente, sì, però sì. Dopo avevano, prima avevano l'etichetta inglese sulla coda, dopo l'hanno cancellata, quindi sì, si vede che è proprio un gioco, no? Facciamo finta che certamente, no? Certamente, no, ma infatti è un gioco molto sporco, esatto, chiaramente, ma non dobbiamo cioè non si può anche dimenticare che proprio ieri gli azionisti ovviamente si vedevano per festeggiare i profitti di questa multinazionale che nel 2015 il loro fatturato corrisponde a 2,6 miliardi di euro, quindi insomma, certo, stiamo parlando di grossi interessi, certo, è un vero e proprio colosso. Tra le altre cose, spesso la Rheinmetall quando vende anche i carri armati tende anche a produrli direttamente in loco, proprio per come dire, per spuntare di nuove commesse, ecco. Certo. Yes. Dalla RVM sono state vendute 250.000 bombe, ecco, ecco, state consegnate, ecco, certo, per far capire anche un po' le cifre, insomma. Certo. E poi però poi, ci sono giornalisti che parlano della guerra nello Yemen come se fosse qualcosa che appartiene a un mondo di barbari che non ci interessa, cioè che non ci riguarda, esatto, no? Sì, sì. Tra le altre cose, come dicevi tu, questa manifestazione si inserisce in tutto il percorso che il movimento antimilitarista sta cercando di fare in Sardegna, perché come appunto hai accennato prima, la Sardegna paga un prezzo molto alto, cioè nel senso che il demanio militare italiano in Sardegna è presente a più del 60%, quindi diciamo che la Sardegna purtroppo sta partecipando in vari modi alla, diciamo, a tutte queste conflitti e queste guerre, ecco. Certo, infatti. Ecco, noi riteniamo il vostro impegno particolarmente importante perché è sul campo, cioè voi siete come se foste su un fronte, è un fronte, sì, con cui dovete fare i conti tutti i giorni. Noi possiamo fare appunto la nostra parte su altri fronti. Stavo parlando prima in apertura di trasmissione del fatto che noi qui per esempio abbiamo un altro tipo di militarizzazione, chiaramente non come la vostra, però in tutti gli angoli della città ci sono i militari coi mitra, nelle stazioni della metropolitana ci sono i militari coi mitra, hanno fatto addirittura, hanno comunicato un tempo fa che avrebbero fatto delle esercitazioni antiterrorismo tra virgolette con finti ostaggi nelle stazioni della metropolitana, cioè noi a tutto questo, per quanto piccolo, dovremmo trovare il sistema di opporci, perché come abbiamo sempre detto, come femministe, come donne, come compagne, come militanti, che oltretutto che la militarizzazione è cultura dello stupro, tra l'altro, perché porta con sé tutta una serie di valori che travalicano oltretutto, no, la dimensione militare, come sempre, poi come è impossibile dire che la dimensione militare è qualcosa di relegato in un contesto specifico, non è vero affatto, e che è appunto. E quindi possiamo anche lasciarvi con una delle frasi vostre che ci piace tantissimo, che è: nessuna pace per chi vive di guerra. Esatto, questa... nessuna pace per chi vive di guerra, e la nostra intenzione ora è di come dire, costruire anche un percorso, non dico dentro la fabbrica ma fuori dalla fabbrica, cioè quella di dare almeno un appuntamento ogni mese per riuscire a interrompere almeno una volta al mese la produzione di queste bombe e far perdere anche un po' di profitti alla RVM, cioè o meglio alla Rheinmetall, ecco, questo è in difficoltà. Grazie, sì, grazie tantissimo di questo collegamento, saluto a tutte le compagne e i compagni e appunto nessuna pace per chi vive di guerra. Ciao. Grazie, ciao. A presto, ciao ciao. dicendoci che comunque le misurazioni, per esempio un mese fa, due mesi fa, sono state fatte delle misurazioni. One breath away from Mother Oceania, your nimble feet make bread. Siamo di nuovo in diretta. Un'altra notizia che riguarda il nostro quotidiano e che ci fa capire quanto gli scenari di guerra facciano parte appunto della nostra vita di tutti i giorni è il premio per la pace alla ministra Pinotti. Pinotti, sì. Il 13 aprile la ministra della difesa Roberta Pinotti ha ricevuto il premio Napoli Città di Pace, ideato e promosso da una sinergia tra l'UCSI, che è l'Unione Cattolica della Stampa Italiana. Un attimo solo, questa Vai. Comunicazione l'abbiamo avuta dalla rete No War di Napoli. Dall'UCSI, dicevo, e promosso dall'UCSI in sinergia della Campania e in sinergia con l'Ordine dei giornalisti della Campania, con l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa e l'Arcidiocesi di Napoli, quindi insomma la provenienza è omogenea. Con questa motivazione, sì, insomma, almeno sappiamo che l'Ordine dei giornalisti della Campania, vabbè, saranno pure loro tutti cattolici, suppongo, però con questa motivazione: per il suo ruolo strategico e riformatore in materia di difesa nazionale e internazionale, declinato al femminile, in piena coerenza con un impegno di servizio della politica come forma più alta di amore, che mette al centro la tutela e la dignità della vita umana. È incredibile, ma hanno scritto proprio questo: amore femminile, mi sento personalmente insultata, e tutela e dignità della vita umana. A un ministro della difesa, io lo chiamerei di attacco, ma leggiamo di seguito. Cosa abbia a che fare con la pace, dove stia questo ruolo riformatore o la tutela e la dignità umana nell'operato di questo ministro della difesa, che si sta distinguendo per la volontà e la caparbietà a rafforzare le politiche imperialiste e belliciste dell'Italia, è un mistero. Non possiamo credere che a chi l'ha nominata donna di pace sia sfuggita la sua determinazione a mettere mano ad un nuovo intervento militare italiano in Libia o l'invio di nuovi militari in Iraq o Afghanistan, né che sotto il suo mandato si siano consolidati i rapporti di collaborazione militare con paesi come il Qatar o l'Arabia Saudita, riconosciuti ormai tra i finanziatori dello Stato Islamico e tra i principali destabilizzatori del Medio Oriente, o ancora che sia il principale piazzista per l'industria di armi italiana, favorendo il massacro di interi popoli. Da già, abbiamo parlato adesso 5 minuti fa con la compagna della Sardegna. Infatti, da quello afghano a quello iracheno, da quello yemenita a quello siriano, o che si profonde in attestazioni di amicizia verso lo Stato sionista di Israele, tacendo sul quotidiano stillicidio di vite palestinesi. Io aggiungerei anche che insomma i rapporti di simpatia, diciamo, quantomeno un po' troppo diplomatici con l'Arabia Saudita, che è un paese wahabita che insomma non è propriamente simpatico nei confronti dei suoi sudditi, perché questo sono, insomma, la dice lunga sull'operato della Pinotti. Ed infatti non è sfuggito nulla di tutto questo, se nel consegnare il premio al ministro l'arcivescovo di Napoli Crescenzio Sepe non solo ha sottolineato e lodato il grande impegno delle forze armate italiane per riportare la stabilità nelle aree di crisi attraverso le operazioni militari, ma ha anche proposto di cambiare la denominazione, sentite bene, del Ministero della Difesa per chiamarlo Ministero della Pace. Cioè qui siamo oltre. Siamo oltre. Siamo proprio oltre. Cioè, posso capire se volessimo cambiare il nome in Ministero dell'Attacco, ci avrebbe più senso, perché siamo oltre la difesa qui. Qui siamo proprio all'attacco spacciato, ma Ministero della Pace. Okay. È la faccia tosta totale. È una presa in giro, almeno prima, cioè, si schermavano con l'ipocrisia, solo stavano zitti, adesso sono proprio oltre, ci prendono in giro così. Una proposta che secondo la Pinotti rappresenta un'interpretazione autentica di quello che sta cercando di portare avanti al Ministero della Difesa, il che è obiettivamente vergognoso. Ma in un sistema in cui si assegna il premio Nobel per la pace ad Obama, presidente della nazione che più di tutte, prima e durante il suo mandato, ha seminato e continua a seminare morte e distruzione sull'intero pianeta, in un sistema in cui il linguaggio è piegato alle necessità della guerra, dove le aggressioni ad altri paesi diventano missioni umanitarie ed esportazioni di democrazia, dove le bombe diventano intelligenti e le vittime civili solo danni collaterali, non ci meraviglia. La guerra è diventata pace, come ci ricorda Arundhati Roy. Quello che però troviamo ancora più vergognoso è che tale premio sia stato concesso, e con quelle dichiarazioni, da una parte quella cattolica, che dopo le parole contro i trafficanti di armi e di morte di Papa Francesco faceva sperare tutti in un suo più attivo impegno contro la guerra. Tutti proprio noi. Però evidentemente non è così per rappresentanti della Chiesa come l'arcivescovo di Napoli Crescenzio Sepe, né per l'Unione Cattolica della stampa italiana. Certo che se le parole di Papa Francesco corrispondessero davvero alla realtà Crescenzio Sepe si fosse, insomma, distaccato dal volere papale, o quantomeno dalle intenzioni papali, dovremmo cominciare a pensare che davvero c'è grande autonomia nella Chiesa, che in realtà non c'è tutta questa, insomma, imposizione dottrinale. Allora è libera la Chiesa, ci eravamo sbagliati tutti, ognuno può dire quello che gli pare. E quindi, insomma, è significativo questo, no? Più che significativo, è di una gravità inaudita, perché insomma siamo oltre la copertura. Comunque una parte dei cattolici ha fatto un comunicato. Sì, una parte dei cattolici, per fortuna si è dissociata ampiamente, sì. Ha condannato l'episodio, e stigmatizzandolo come i comboniani e sì, l'aria comboniana. Sì, come li potremmo chiamare le colfe, i badanti del Vaticano, cioè quelli che poi si sporcano le mani in senso buono. Sì, sì. Allora, c'è un passaggio, infatti. Sì, c'è un passaggio importante nel loro comunicato di condanna, che è una sorta di risposta a quello, ecco, che ha detto la Pinotti ricevendo il premio. Certo. La Pinotti si è espressa in questo modo, quasi mettendo avanti le mani, perché probabilmente si rendeva lei per prima conto dell'enorme idiozia dietro questa iniziativa, e ha detto questo: potrebbe sembrare paradossale premiare un ministro che si occupa di difesa e forze armate, ed è paradossale, con un premio per la pace, ma si è capito che non è affatto paradossale, perché le nostre forze armate operano proprio per garantire la sicurezza dei cittadini, la stabilità delle istituzioni, e lavorano quotidianamente per riportare la pace. E la voce della Pinotti mi piace molto. Perché è retorica, no? Vendiamo questo tono, che è quello che poi corrisponde. E la risposta giustamente è stata quella che segue, che riportiamo perché vale la pena di essere letta. Sarebbe istruttivo per tutti che a queste affermazioni potessero replicare i civili uccisi dalle bombe italiane, i morti iracheni uccisi a causa della fantomatica arma letale per cui venne combattuta, anche da parte degli italiani, quella guerra stessa. E soprattutto dovrebbero parlare le centinaia di militari italiani morti e le migliaia di ammalati di cancro a causa dell'uranio impoverito, alle cui polveri furono esposti senza alcuna protezione, e io aggiungo anche senza alcuna informazione. Gli orfani e le vedove di quei militari, cui sono negate anche forme di assistenza, meriterebbero di non essere offese da questo premio. E oltretutto io aggiungo questo perché vengo da una zona che è stata molto esposta e anche al riverbero delle sostanze utilizzate anche nei Balcani, durante la guerra nei Balcani, che molte persone sulla costa di fronte alla Jugoslavia ci sono stati moltissimi casi di linfogranulomatosi, il morbo non Hodgkin, che sono tutti collegati, un'incidenza veramente alta che non si era riscontrata prima, però ovviamente gli studi di settore o comunque le inchieste, le indagini, è giusto che non si sappia il meno possibile, sì. E anche loro, ci sono anche queste persone in mezzo, quindi il Ministero della Pace tutto, ma questo veramente no, è un insulto all'intelligenza di chiunque. Anche se io l'altro giorno proprio in televisione ho visto un servizio in cui un giornalista chiedeva conto alla ministra Pinotti proprio di queste morti di militari, e lei ha risposto in una maniera che ha colpito perfino me, che insomma so chi è e non sono sicuramente militarista, ha risposto in maniera molto pesante e sprezzante, il che fa capire insomma, sì, no, come qualcosa che non, che non ci riguarda, sì, che non riguarda, che non ha molta importanza, è che la risposta era che palle, no, sì, esatto. Ancora ce la menate con più o meno ma questo è sintomatico dell'arroganza che ha anche questo governo, perché si sente forte, molto forte. Sarebbe da risentire quell'intervista, perché è stata particolarmente sprezzante la risposta. La supponenza dei governanti che si sentono forti di essere parati. Sì, perché voglio dire, i democristiani una volta salvavano la parte, no? Cioè avevano una modalità di porsi per cui c'era un concetto diverso, c'era un concetto diverso proprio di fa, molto, sì, molto ipocrita, c'era un però. Ma adesso sono cambiate tante, cioè sono più sfacciati in tutto, sì. Il che non significa che siano meno pericolosi, però, anzi che questi sono particolarmente pericolosi, sono rozzi, c'è una rozzezza, sono sfacciati intendevo rozzezza proprio di atteggiamento, di sfacciati, sanno di avere un'impunità forte perché sono protetti, esatto, da poteri più alti. J'arrive en fuyant. On me Il 15 maggio a Niscemi ci sarà, che è domenica prossima, ci sarà una manifestazione No MUOS. È importante manifestare contro il MUOS, è importante manifestare per la smilitarizzazione della Sicilia, per la smilitarizzazione della Sughereta di Niscemi. Soprattutto è importante fare rete tra tutte queste resistenze, chiamiamole così, tutti questi desideri di opporsi a questa dimensione di guerra imperante, perché poi sul fronte interno la dimensione di guerra si interseca, si intreccia e non è più neppure scindibile. Quindi il 15 maggio ci sarà una manifestazione a Niscemi che è stata indetta dal coordinamento regionale dei comitati No MUOS e il cui appello comincia così: da anni il più potente esercito del mondo, in combutta con lo Stato italiano e con la complicità serva della regione siciliana, tenta di imporre l'ennesima opera militare a un territorio che la respinge in quanto strumento di guerra e di morte. Da anni un movimento di attivisti con la complicità solidale di un'intera popolazione si oppone ad un eco mostro che è elemento chiave di un ampio disegno guerrafondaio e che comporta rischi concreti per la salute e per l'ambiente. Come se non bastasse, il MUOS è anche illegale e abusivo. Nonostante gli scettici e gli oppositori a parole, questa lotta è riuscita fino ad oggi a bloccare la messa in funzione del MUOS. Ha fatto inciampare la Marina USA e i governi italiani e regionale nella ragnatela degli imbrogli che essi stessi hanno tessuto. Ricordiamo che il MUOS è sotto sequestro da un anno. Per questi motivi il movimento No MUOS è diventato un esempio di resistenza e incoraggia decine di movimenti in altre località. Saltiamo un pezzo e alla fine dice: con questo appello invitiamo tutto il popolo No MUOS, le realtà attive nelle lotte sociali e territoriali, le persone sensibili a Niscemi il 15 maggio per dare vita a una grande manifestazione No MUOS. La partenza è fissata per le ore 16 da Piazza Vittorio Emanuele. E adesso vi mandiamo la registrazione di un collegamento che abbiamo fatto con una compagna del coordinamento No MUOS proprio in relazione alla manifestazione di domenica. Ciao a tutte, ciao a tutti, siamo in collegamento con una compagna di Niscemi. Ciao. Ciao. Perché domenica a Niscemi c'è una manifestazione, è stata lanciata una manifestazione No MUOS, di cui tu ci racconterai un po' che cosa, su cosa è impostata e che cosa farete. Allora, il 15 sarà, a differenza degli altri cortei che l'abbiamo fatti comunque in Contrada Ulmo, dove comunque c'è la base, è invece un corteo cittadino, manifestazione proprio popolare, nel senso che la facciamo dentro la città, dove si concluderà in piazza, dove ci sarà un'assemblea, dibattito e dei concerti. Questa manifestazione noi l'abbiamo indetta almeno 3 mesi fa e non sapevamo che ci poteva essere già la sentenza al CGA. L'altro giorno praticamente c'è stata la sentenza al CGA in cui ha dato ragione, ha accolto l'appello fatto dal Ministero della Difesa. Sì, infatti. Dimmi, no, continua. Dicendoci che comunque le misurazioni, praticamente un mese fa sono state fatte delle misurazioni dentro la base, misurazioni che per noi sono state comunque è stata tutta una farsa, perché non sono state fatte come dovevano essere, con tutte le antenne accese alla massima potenza e il MUOS acceso, e questo non è successo, cioè dentro con loro sono entrati anche i nostri feriti, e questo non è successo perché di 46 antenne ne hanno accese 18, e tra l'altro le misurazioni l'hanno fatto sempre ad uno, con un'antenna accesa alla volta, e del MUOS hanno solo acceso 2 parabole, non 3, e manco alla massima potenza. Beh, figurati, Figurati se. Noi già da prima sapevamo che queste misurazioni con i tecnici comunque della regione, sapevamo che era tutta una farsa, e infatti questo è successo, cioè la loro relazione comunque non coincideva con quella comunque dei nostri tecnici. E niente, praticamente colpo di scena, il CGI ha dato ragione al Ministero della Difesa che per loro non c'è un problema di salute, non fa male. Beh, per loro forse no, per loro forse no. Cioè il problema di salute è che appunto. Ora invece il 20 si apre il processo a livello penale perché il MUOF è sotto sequestro. È ancora sotto sequestro perché il procuratore di Caltagirone ha sempre definito quell'opera abusiva perché è fatta in una zona dove non si può costruire, non puoi neanche piantare un paletto, e là invece hanno sventrato completamente una sughereta. E su queste basi il procuratore di Caltagirone ha messo i blocchi a quel cantiere, cioè dichiarandolo abusivo, quindi il 20 si aprirà il processo penale su questa cosa per abusivismo, e lì ci sono responsabilità, ci sono persone già citate. E quindi noi la manifestazione, cioè, è ancora molto più sentita anche all'interno della città, anche per questa cosa del CGA, perché le persone non concepiscono questo risultato, che dicono cioè è una farsa le misure, c'è un tribunale che si schiera completamente dallo Stato e il principio di precauzione non viene attuato, perché noi abbiamo sempre chiesto il principio di precauzione. Sì, ma sai, questi spingono per il TTIP, che del principio di precauzione fa assolutamente strame. Pensa tu se possono preoccuparsi del nostro territorio, insomma. Ecco. Infatti noi abbiamo sempre detto che noi come movimento troviamo tutte le strade, nel senso che a livello legale facciamo tutto quello che c'è da fare, ma sappiamo benissimo che la lotta è dal basso e si deve scendere in piazza e si devono fare delle cose che dobbiamo fare noi come persone, come movimento. Eh sì, tant'è vero che è molto importante questa scelta che avete fatto, cioè di fare una manifestazione cittadina, perché le persone devono sentirsi essere coinvolte, insomma. Sì, certo. Infatti era una cosa che abbiamo fatto diverse volte, sempre incontro da Ulmo, e abbiamo fatto almeno 2-3 manifestazioni sempre anni scemi, essendo anni scemi perché comunque contro da Ulmo ora la situazione è molto, c'è molta repressione, nel senso che noi abbiamo ora là militari italiani che ti fermano, ti chiedono il documento, tu non puoi neanche più passeggiare tranquillamente vicino alla base perché ti fermano, ti perquisiscono, ti chiedono i documenti, ti fanno stare 3 ore, quindi c'è un livello anche di repressione molto forte. Anche quando molto forte, anche persone che vanno a incontrare in sughereta per una passeggiata con le bici, c'è una sughereta, quindi le persone la domenica vanno là, si ritrovano persone con famiglie e bambini, si ritrovano ferme 3 ore là con polizia, militari che ti chiedono i documenti e ti fanno stare. Questo è anche un motivo per far allontanare le persone da quel posto e non farle più andare là. Certo, perché poi la militarizzazione del territorio e la risposta repressiva è la tendenza in ogni dove, nel senso che è una modalità che loro ormai hanno preso ed è la tendenza in qualsiasi campo. Addirittura, non lo so, fai una manifestazione all'università contro l'ISE, come è successo tempo fa, la risposta è fortemente repressiva, sanzioni amministrative pesantissime per niente, cioè intorno non si poteva neanche circolare, ed è una strada proprio che hanno preso. Figuriamoci poi in questi contesti come il vostro. Sì, è assurda la situazione che ora c'è in questo momento, c'è molto molto repressione in questo senso, ma anche dentro Niscemi. Sì, no, ma è una situazione che andrà poi sempre peggiorando, perché l'altro giorno, per esempio, qui a Roma c'è stata la manifestazione contro il TTP sabato, no? Contro il TTIP. E praticamente è stata una manifestazione, seppure partecipata, eccetera, eccetera, ma sempre una manifestazione limitata, nel senso, la gente dovrebbe sentirsi coinvolta fin sopra i capelli. È una cosa che diciamo coinvolgerà il quotidiano di tutte e di tutti. E questa è un'aggressione sullo stesso livello della NATO, atto a un'aggressione militare a tutto campo. Il TTP è un'aggressione economica, ma sono due facce della stessa medaglia. Quindi bisognerebbe coinvolgere le persone proprio. Sì, ma infatti noi abbiamo fatto questa scelta perché comunque c'è, cioè, o farla incontrata a Ulmo o farla insieme, abbiamo detto, cioè, se vogliamo coinvolgere molte più persone, cioè, dobbiamo farla a Niscemi, girare per le vie della città e far capire allo Stato, ai tribunali pure, che Niscemi c'è, Niscemi non lo vuole, a prescindere comunque dalle sentenze, dalle misurazioni che vengono fatte. Certo. E comunque in questi giorni, in questo mese che abbiamo fatto informazione, volantinaggio, cioè la gente è incazzata perché dice, cioè, può essere che non possiamo decidere, no, abbiamo sempre detto da 9 anni che non lo vogliamo. Non lo vogliamo, cioè, può essere che non possiamo decidere noi quello che dobbiamo fare, cosa si deve fare nel nostro territorio. La gente è incazzata perché dice 9 anni che lottiamo, è 9 anni che ci mettiamo in piazza e che nessuno ci ascolta. E il problema è che una delle cose che veramente non devono passare, secondo questa progettualità, chiamiamola a tutto campo, è che non ci può essere autodeterminazione delle persone dei territori. È una cosa fondante questa, nel senso che penso che sia uno dei nodi proprio politici che loro non intendono far passare. Cioè, l'autodeterminazione dei territori e delle persone è una cosa che non può esistere, altrimenti magari qualcuno pensa di non essere d'accordo con loro, no? Così. Così una per tutte, no? Può darsi che si inneschino meccanismi critici. Però comunque siamo molto positivi noi su questa manifestazione e pensiamo che Niscemi e comunque tutta la Sicilia, perché ci sono autobus che stanno venendo da vari posti, sappiamo che comunque la risposta la daremo e più avanti daremo anche altre risposte. Certo. Come sempre abbiamo fatto. Comunque noi vi diamo un appoggio assoluto e un grande in bocca al lupo per la manifestazione. Siamo assolutamente convinte che le lotte vanno riportate a unità, che è necessario costituire reti e quindi il fatto di collegarsi e di rimbalzare quello che succede, secondo noi, è importantissimo. Sì, infatti vi ringraziamo sempre noi che ci date la anche noi, guardate, vi ringraziamo tantissimo, perché la resistenza ovunque si esprima è sempre in questo momento molto difficile, pesante da sostenere, quindi insomma, dai, grazie tantissime, grazie e un abbraccio a tutti, salutami tutte le compagne e compagni, ciao, grazie, ciao. Ciao, ciao. Souvent je me fâche parce que vraiment c'est pas un bruit, ça c'est ma langue. Par exemple, e allora per concludere vi volevamo appunto ricordare gli indirizzi per contattarci, comunicare, scaricare tutto il materiale del nostro blog, che è coordinamenta.noblogs.org. Per scriverci invece coordinamenta@autistiche.org. E invece la radio non vive d'aria, quindi se volete aiutare la radio, il conto corrente postale 61804001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volci 56 00 185 Roma. E ovviamente poi sul sito di Radio Onda Rossa troverete comunque anche altre modalità del crowdfunding per donare. Volevamo concludere con una frase di Rosa Luxemburg. Per salutarvi abbiamo scelto questo: l'ordine regna a Berlino, stupidi sbirri, il vostro ordine è costruito sulla sabbia. La rivoluzione già da domani di nuovo si rizzerà in alto con fracasso e a vostro terrore annuncerà con clangore di trombe: io ero, io sono, io sarò.